sono uno storico revisionista e mi piace Mussolini sicuramente. Soprattutto ha dato dignità alle famiglie, perché ha fatto in modo che le persone si sposassero dividendo poi gli uomini dalle donne, per esempio, sì, sui campi di concentramento. I campi di concentramento esistono oppure no? Sono esistiti i campi di concentramento secondo lei? Ma che cazzo dici? Non dire cazzate. No, figurati, allora gli ebrei si sono suicidati, erano così stronzi allora, che si sono suicidati. Ma che cazzo dici, Finocchio? Stai zitto, non rompere i coglioni. Onore a Benito Mussolini e vaffanculo a te! La zanzara. Tutto il resto è troia. Hai capito, figlio di puttana? No, non ho detto gioia. Parenzo, stamattina durante il turno TAC tra un paziente Covid e l'altro ho sentito la tua voce all'aria che tira e niente, ho dovuto fermarmi per guardarti. Parenzo, quando vuoi. Sì, sì, sì. Pronto? Ancora con sto numero. Non sono io, porca puttana. Non sono io. Scusi, lei è sposato però? Ma porca puttana, ancora questo numero. Ma lei è sposato, perché lei cerca di... Ma se uno vuole... Ma perché... Io dico, dove l'hai trovato? Aspetta. No, no, non te lo passo. Dove l'hai trovato? Dove l'hai trovato? Questo numero, dove l'hai trovato? Incontri, zona Riccione. Zona Riccione, pure. Oggi pomeriggio. Sì, il numero 348 è il numero. Basta, non dire più, è solo 348. No, no, no, no, fermo. No, no, no, no, fermo. Non ho capito, non ho capito. Poi che cerca? Clara, che cos'è? Clara cerca ragazzi bogliosi con calze sopra i 20 centimetri. Ma io non lo sapevo. Io sono 21. Sì, vabbè, vai a fare in culo, vai. Ma lei è sposato, ha fidanzato? Ehi, Pamela? Ancora con Pamela? Non c'è nessuna Pamela qua. Scusa, io sono quella vecchia chiamata lì che pensavo che era sempre il pappone. Ma non è Pamela! Non sono il pappone, ancora! Io che ne so, ma io mi trovo l'annuncio perché piaceva la cosa, ho capito, ma non sono il pappone, non c'è nessuna Pamela, è un numero sbagliato, lo vuoi capire o no che non sono il pappone? Io che ne so, io la fidanza, non ci posso andare a picchiare. Ma non mi interessa dove abiti, ciao, non mi interessa dove abiti, ma non mi interessa dove abiti, non sono il pappone! E tu però, fatti delle domande del perché ti hanno associato. Se ancora, al ma non perché mi hanno messo, è chiaro che uno chiama, cerca la capita, puttana, a me non capita, risponde un uomo. Ma ti scambiano per un pappone, io qualche domanda me la farei, fossi te. Però. Ah, volevo chiederti, Fiorenzo, hai pagato quei 2 tranche di Pomezia che si hanno rincorso fino al parcheggio a Roma della 7 e poi hai abbandonato la macchina e sei scappato perché ti volevano menare? No, scusami, mi fai risentire sta cosa? Scusa, due tranze. Non lo sapevo sta cosa. Questa è notizia. Questa è grossa notizia, questa qua. È grossa novità questa qua. Ma non è una novità perché. Fammi risentire perché si mangia le parole, Mauro, per cui non si capisce bene. Aspetta un attimo, fammi sentire. Ah, volevo chiederti, Fiorenzo, hai pagato quei 2 tranze di Pomezia che si hanno rincorso fino al parcheggio a Roma della 7 e poi hai abbandonato la macchina e sei scappato perché ti volevano menare? Sì. Li hai pagati allora? Ma li hai io pagati non ho allora? Mai ma, li sì, hai pagato lo questi 2 tranche? La regia, la no, MC, io l'ho non sentito ho mai chiaro detto, e forte. No, ma hai pagato 2 tranche? Voi siete, di dei, non c'è voi siete di male. Dei, voi siete dei produttori di balle, di fake news. Hai è una pagato fabbrica, 2 tranche di Pomezia che ti hanno inseguito fino al parcheggio della 7. Sì, la fonte sì, di Massi, lo vedi? Sì, lo vedi? A Pomezia, l'ultima volta che ci sono andato è per andare al mare ad Anzio, quindi si passa per Pomezia. In diretta da Roma, David Parenzo. Lorenzo. Buonasera, eccoci, buonasera qui, cari amici. Eccoci qui. Buonasera, buonasera. Mollemente adagiato sul suo letto di Abano, certo, Terme. Alberto Gottardo. Oh, sono sempre più mollemente adagiato, sempre più tranquillo, perché finalmente una buona notizia oggi: Federica Pellegrini è negativa e quindi la smetterà di rompere i coglioni. Il paese è sollevato, paese intero è sollevato da questa notizia. Dunque possiamo proclamare ufficialmente che la signora Federica Pellegrini, colpita da un male gravissimo, colpita da un male terribile, per fortuna non le ha fatto male, guarita definitivamente. Applauso. E aggiungerei anche, anche un esticazzi. Sì, no, esticazzi no, perché comunque molta gente ha seguito questa storia, dunque non si può dire esticazzi. Però guarita da un male gravissimo, gravissimo, ha annunciato la sua guarigione. Beh, c'è poco da scherzare perché qualcuno c'è morto, come sappiamo, e quindi non è da ironizzare sul Covid. No, per carità. Perché per qualcuno è stato letale. In genere sopra i 70 anni. Non è detto purtroppo. Ragazzi, io però partirei oggi da un'altra cosa, non dal Covid, che ci ha rotto anche un po' i coglioni. Ogni giorno tanto diciamo le stesse cose, diciamo personaggi nuovi, certo, poi alla fine, però alla fine stringi si va sempre verso le stesse discussioni. È successa però una cosa clamorosa, una cosa gravissima. Avete visto, no, il terrorismo in Francia, le persone, tre morti, una persona sgozzata addirittura. E da dove veniva questo signore, questo terrorista, questo criminale? Io dico solo questo, poi mi taccio perché non voglio dire nulla. Veniva dal suo paese. Dalla Tunisia. È sbarcato a Lampedusa. Vabbè, in transito, che vuol dire? È sbarcato a Lampedusa con un barcone. E quindi? Dove siete? E chi? Cosa che avete vuol dire? Da dire? Tu, il signor Veronesi, il signor, che ne so, altri personaggi dell'accoglienza, altri protagonisti di questi mesi. Questo è sbarcato a Lampedusa dentro un barcone, è andato poi a Bari, lo hanno identificato la Croce Rossa Internazionale, era stato espulso poi tranquillamente, siccome l'Italia è un colabrodo fermo, che sono in trans, non trans eccetera, l'Italia è un colabrodo, questo è riuscito alla fine ad arrivare in Francia tranquillamente a sgozzare tre persone. L'accoglienza, dov'è il Papa? Ma cosa vuol dire? Che diceva a Lampedusa, venite. Ma che cosa vuol dire? Ma sarebbe come dov'è dire il Santo Padre? Ma che vuol dire? Dov'è? Ma sarebbe dov'è come il dire Santo Padre? Ma sarebbe come dire in Sicilia allora, sono tutti mafiosi. Ma che vuol dire? Oggi per un secondo. Ma lo diresti mai che in Sicilia tu, sono mafiosi? Tu che sei il paladino dell'accoglienza, vengono disperati, ma non dell'accoglienza eccetera, in generale. Figuriamoci quello... se c'è un terrorista. Ma fino ad oggi non c'era mai stato, ma che vuol dire? Eccolo qui servito. Tre persone di cui una sgozzata. Sei felice, eccomelo, vedo. No, non sono sei, felice. Sei esaltato, no, sei. Al contrario. Ti sentiamo esaltato. Sono dispiaciuto tantissimo per dalla morte la vostra di tre persone. Tesi, la tua non di c'è Salvini, nessuna tesi. La vostra non tesi. Non c'è alcuna tesi, nemmeno sei esaltato. Oggi. Dovresti chiedere scusa. Ma di che cosa? Perdono per quello perché che ho detto. Perché su 50.000 persone ce n'è uno, su 30.000 persone ce n'è uno. Come direbbe, perché vergogna, sarebbe vergogna, come vergogna. Dire che siccome Traini ascoltava la Zanzara, tutti quelli che ascoltano la Zanzara sono dei potenziali terroristi. Non dire Traini, cazzata. L'attentatore Traini ascoltava cazzate. La Zanzara. Non dire siccome, cazzate. Certo, è uguale, nella banalizzazione. Non dire, ti prego, non dire nella cazzate. Tua almeno banalizzazione. Oggi, non dire nella cazzate. Tua banalizzazione. Almeno oggi, usare almeno i morti di Nizza per le tue almeno tesi, oggi, per le tue quelle tesi. Di Salvini non è vergognoso. Tesi. Usare i morti di Nizza Salvini per le tue missioni della è uguale, siete uguali. Certo, stai dicendo la stessa cosa. Una bella figura con la Francia. Cosa c'entra l'Italia? Con la procedura di espulsione di cui ce ne siamo ampiamente sbattuti i coglioni, è perché era stato espulso, non l'abbiamo espulso e questo qua ha raggiunto la Francia per sgozzare tre persone. Ma che cazzo di paese è? Ma che colabrodo ma è? Ed è colpa anche tua, posso dirti la verità? Poi, sarebbe come dire di responsabilità di Parenzo in questa storia qua. Sì. Accoglienza, no, ma non giocare accoglienza con la morte di queste persone, non accoglienza giocare. C'è la morte di persone, accoglienza non giocare. Indiscriminata. Dov'è non giocare. Il pontefice? Dove non sono giocare, oggi non i profeti giocare. Dell'accoglienza? Dove sono? No, ma non giocare con la ma morte di quelle persone, è Meluzzi, brutto che tu lo faccia. Meluzzi. L'importante, come dice la Sacra Scrittura, è non avere paura, affidarsi con forza alla Santissima Trinità, alla Vergine Maria, no, e pensare non che anche se stiamo entrando nel tempo dell'abominio, in un tempo che puzza di zolfe di anticristo, lontano un miglio, il Signore non abbandonerà il suo popolo e la Vergine Maria non abbanderà la Chiesa di cui e madre e maestra, e quindi abbiamo fiducia, abbiamo fede e non abbiamo paura. No, scusa, ma che puzza ha sto zolfo? Io ogni tanto vorrei capire la puzza di zolfo. Lo vorrei avere qua, la puzza di zolfo. La puzza di zolfo e dell'anticristo. Adesso, la Vergine Maria, va bene, affidiamoci. Qualcuno si affida anche alla Vergine Maria. Non so, Parenzo, se tu ti affidi ai tuoi... Giuseppe, non mi affido a nessuno. Giuseppe, volevo ricordare che qualche settimana dopo che Salvini ha affidato tutti noi alla Vergine Maria, è arrivato il Covid. Io non lo farei più. No, io non lo farei più così. No, lo dico sommessamente, tutto il rispetto per i religiosi, basta, lasciatela stare la Vergine Maria. Morti da infopandemia costruita a tavolino per vendere i vaccini. Questa è la convinzione di Meluzzi. Quindi c'è stata una montagna di morti, non da virus però, ma da infopandemia. Quindi l'infopandemia è stata una cosa costruita a tavolino, gestita attraverso i mass media, e io non posso pensare che l'unico obiettivo finale di questo diabolico disegno fosse quello di vendere i vaccini. Un'elite planetaria delle banche che ha creato tutto questo, secondo Meluzzi. È uno spostato. Vabbè, certo. C'è un'elite planetaria che gestisce la circolazione delle monete nel mondo. Questa elite planetaria è un'elite che ha nomi e cognomi precisi, non c'è bisogno di essere complottisti per saperlo. Ci sono una quindicina di gruppi bancari planetari, molti dei quali gli ingenui credono essere pubblici, alcuni come la BCE, e se voi guardate i board, i consigli di amministrazione, i CEO di questi gruppi bancari, scoprirete che ci ruotano dentro una ventina di cognomi in tutto, che sono tutti delle stesse origini, non voglio dire quali naturalmente, perché non voglio essere accusato di nulla in questo campo, perché è un argomento scosceso, ma se voi scorrete i cognomi di quei board capirete chi sono i veri padroni di questo mondo della finanza. Alcuni di questi nomi sono più noti, sono più conosciuti, si chiamano Rothschild, Rockefeller, Soros, Bill Gates. Cioè, sta dicendo che gli ebrei dominano il mondo e che hanno sostanzialmente creato la pandemia, questa è la sostanza. Le origini di quei cognomi, caro Parenzo, reagisci. Oh, già, guarda, no, è molto semplice. L'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane ha già preso atto, perché me l'hanno mandato. Sì, gli fanno una denuncia, ma è normale, ma io l'avrei fatto anche personalmente. Istigare all'odio mi pare una cosa. Non è imputabile, dai. Ma sono puttanate. Ma sì, quello sono... non c'è dubbio. Uno, dubbio. Però, quando dice puttanata, io vengo sanzionato se dico una puttanata. C'è qualcuno che dice. E quello si appella alla semifermità. Perché si può dire qualunque cosa, secondo te? Se offendi una persona. Ma sono congetture, teorie, dice lui, no? Lui la mette su questo. Sono puttanate. Eppure, secondo me, non ci sono le famiglie che dominano il mondo. In particolare che diffondono una pandemia. Allora, la libertà non è quella di dire qualunque strada, perché se io dico che lui è un figlio di puttana, giustamente lui mi querela, perché gli ho dato del figlio di puttana, perché non è vero che sua madre è una puttana. Per fortuna. Se no, se uno dice così viene querelato. Allora, se uno dice una cosa non vera, ipoteticamente, se uno dicesse una cosa simile verrebbe querelato. È molto diverso. Analogamente. La libertà è fatta anche per raccogliere le stronzate. Tu hai un'idea di libertà per raccogliere che riguarda l'offesa, non c'è il diritto a offendere. Se tu dici che c'è un complotto degli ebrei, offendi oltre che dire una minchiata. Parenzo resisti, sono tutti delle merde, sei l'unico che ha ragione. Parenzo resisti, avanti tutta. La Zanzara. Zanzarosi, visto che siete ancora qui, fatevi sentire. Chiamate l'824-0024 o whatsappate il 393-7171-701. Non negateci un po' di sano qualunquismo. Giuseppe, anche io sono un rider con Deliveroo, lavoro a Londra e confermo che quando non mi lasciano la mancia, la volta seguente che mi ricapita lo stesso cliente, gli piazzo un bel pelo di cazzo nella busta. Il Papa ha preso una posizione che per alcuni è stata sorprendente. Cioè? Ha preso atto delle coppie irregolari, le ha regolarizzate. Sì. Insomma, ha detto il Papa, è arrivato il momento di prenderlo del culo. Ormai è pazzo, secondo me. Pare che vada letta così, serenamente. È arrivato il momento di prenderlo nel culo. Il Papa lo ha detto in maniera chiara, sentimentale. Sì, certo. Ma questo è il suo pensiero. credo che vada ascoltato con serenità. È arrivato il momento di prenderlo del culo. È un genio assoluto. Ha tradotto l'apertura del Papa alle coppie omosessuali e dicendo, beh, cosa vuoi, il Papa ha detto questo, è arrivato il momento di prendere nel culo. Guarda che, caro Sgarbi, non lontano dal Papa, lo sapevano già che potevano prenderlo nel culo da tempo. nelle pratiche ogni riferimento ai porporati è puramente casuale. Ragazzi, mi è arrivato un WhatsApp del signor Bracconeri, che non so se mandare o no, è molto forte nei confronti dell'Islam. Pensavo fosse arrivata un'altra ceretta, ma cerette ne sono più arrivate. Sì, arrivano le cerette. Uno chef si chiama Vinci Guerra, molto incazzato col governo. Il governo manda soldi ai fannulli che non fanno un cazzo e noi ci chiude. Signor Vinci Guerra, Ilario Vinci Guerra, uno chef conosciuto qua, un ristorante napoletano, un ristorante del nord Italia. E come mai? Secondo voi, un imprenditore che ha un'azienda e può lavorare, ci fanno chiudere. I fannulloni che non vogliono fare un cazzo gli mandano i soldi fino a casa. Ma questo è un governo, ma questi sono folli. Cosa hanno fatto in 5 mesi quando noi siamo stati a casa e poi dopo ci hanno fatto riaprire? Hanno investito i soldi nella sanità, non hanno fatto nulla. Che fine faranno queste strutture? Cucineremo nei garage e venderemo su internet. L'ospitalità italiana, quella di accogliere il cliente, di portarlo a tavola, di spiegare un cazzo di piatto. Che fine ha fatto? Dove vogliamo andare? Ci vogliamo globalizzare? Nella merda andiamo a finire. Ragazzi, c'è molta tensione, mamma, caro Parenzo, c'è molta tensione. Non soffiate sul fuoco, noi accogliamo, noi non soffiamo niente. Io dico solo una cosa: Barcone, Lampedusa, 3 persone sgozzate. Dico solo questo. Ma uno su quanti? Dov'è il Papa? Cosa dice il Papa? Max da Milano. Sembri un tifoso dell'Inter che vince lo scudetto ogni 20 anni. Stai zitto, che se fosse successo qualcosa al contrario, erano vent'anni che aspettavi sta cosa. Ammettilo che erano 20 anni. Ma figurati, io aspetto la morte. Figuriamoci se aspetto la morte delle persone. Intanto i fatti sono questi. I fatti sono questi. Punto e basta. Non è che perché è passato da Lampedusa. Un criminale basta. Il fatto che sia arrivato in un barcone non conta un cazzo. Sono passate mezzo milione di persone in 3 anni. Guarda che Salvini non ha bisogno della tua propaganda, perché l'ha già detto prima. Lo hanno già detto questa puttanata. Max da Milano. Lo hanno già detto. Buonasera a tutti. Dimmi, Max. Buonasera a tutti. Veloce, vai. Allora, no, avevo una cosa da porre, una domanda da porre a Parenzo. Visto che lui si ritiene una persona molto democratica, perché quando qualcuno non ha la sua opinione incomincia ad offenderlo? Perché è una cosa che ho notato negli ultimi tempi. Sì, però Max, dipende dalle situazioni. Se hai solamente questo da dire sulle modalità di risposta di Parenzo, ti butto giù il telefono e ti mando a fare in culo. Hai qualcos'altro da aggiungere? Beh, ce ne si da aggiungere. Vogliamo parlare del Covid, dimmi. Di un professor Galli che va a Carta Bianca da Bianca Berlinguer dicendo che sul totale dei casi giornalieri normalmente gli asintomatici sono il 40%, quando è statisticamente provato che sono intorno all'85%. Lorenzo D'Ancona. Ciao Pepe. C'è molto scetticismo. Ragazzi, agli scienziati che vanno in televisione, i virologi, non crede più nessuno. Questa è la realtà dei fatti. Questo è un non dramma, crede più nessuno. Molte delle cose che hanno detto tornano perfettamente. Tra di loro, che ci sarebbe stata una seconda ondata, sono ce l'avevano detto, voi non ci avete l'uno creduto. Del successo dell'AMA lo dicevano tutti. No, dai. Tu eri tra quelli che diceva è tutto finito. Rimandiamo in onda. A giugno tu dicevi che è tutto finito. In quel momento era finito. Tutti dicevano Lorenzo. Non è finito, semplicemente c'è ancora, ma circola di meno. Fammi sentire Lorenzo. Tu dicevi che era tutto finito. Ma io non dicevo un cazzo. Come no? Ma io... Andiamo a riascoltarlo, libertà, davvero. Libertà. Ma libertà ero di distrazzate, che fosse certo, finito. Tutto. Ma ero, chiunque è contento, ma non era finito. Ma tu dicevi che era finito. Speravo, certo. Lorenzo. Ma tutti, ma anch'io spero che domani finisca. Non dico che tutto è finito, però. In quel momento sì. Ma in quel momento non era finito per niente, infatti c'è Lorenzo. Vorrei fare un'osservazione, stronzate Giuseppe, perché hai detto Mi è capitato di vedere le foto della moglie di Parenzo. E devo dire che, cioè, ma cosa c'entra adesso la moglie di Parenzo? Adesso non è che ogni puntata vi deve essere messa in mezzo quella santa no, donna, no, che ha a che fare con tre ragazzi. Mi fa piacere, lo so. Positivamente, che è vero. Positivamente. E va bene, è buona, posso dire, ma meno male. È buona, che cazzo vuoi fare? C'è chi sta con le buone, c'è chi sta con le cozze, c'è chi sta con quelle meno buone. È la vita. Che ti devo dire, figlio mio? È viva. Mandami la foto di tua moglie e basta, che ti devo dire. Più che altro è che i soldi non ce l'ha perché c'ha gli stessi maiotti dal 2010. Ah, perché è tre giorni che sei con lo stesso maglione. Elena da Milano, anzi no, Marco da Modena. Marco da Modena. Ah, questo perché lo uso solo al pomeriggio, perché la mattina sono in giacca e cravatta. Marco da Modena, vai. Marco. Si sporca meno. Dimmi. Dai, forza, dai. Ascolta, Bergoglio, ragazzi, Lampedusa, Lampedusa, nave quarantena Rhapsody e poi in Francia a sgozzare. Questa è la realtà. I fatti sono questi. E gode come un riccio. No, non sto godendo, Marco, esatto. Dimmi. E Bergoglio è un delinquente, un usurpatore, questo bestemmia. Aspetta. Bergoglio è un coglione. Fermo, vergognati, c'è la polizia vaticana qua. Marco, non ho capito a chi appartenete voi, non ho capito a chi appartenete. Ma mandala a quel paese, chiudilo. Non se ne frega cristiani un cazzo. Anch'io, chiudilo, non sei un pazzo. Chiudilo, sei un pazzo. Bestemmia, chiudilo. Non sta bestemmiando. Ha detto già una cosa molto grave. Scusalo, perché è una cosa molto grave. Fermo, chiudilo. È di una chiesa autocefala. È di una chiesa vergognosa. La Zanzara. Se volete parlare al telefono con la Zanzara da fallo 800 24 00 24, oppure se volete mandare un sfaccio i messaggi coppa WhatsApp 393 71 71 701. Telefonate. Vi avviso che sono già calato 4 kg perché ho problemi di dare la motoretta. Ho già, sono già dimagrito 4 kg. Stamattina sono andato in farmacia in città senza mascherina e nessuno mi ha detto niente, perché forse mi conoscono, la maggior parte mi conoscono, sanno che se mi dicono di mettere la mascherina sanno già che io l'ho messa. Entro in farmacia, sto chiedendo un medicinale perché avevo una colica leggera, e mi fa: scusi, posso fare una domanda a quello che c'era in fianco? Mi dica: ma lei è Mauro Romanzo? Yes. Ah, mi sembrava che fosse col sorriso di approvazione, no? La commessa fa: ah, ma è Mauro Romanzo. No, ma semplicemente ti hanno riconosciuto perché sei uno spostato. Cioè, questo è il punto. Non ti hanno riconosciuto. Sembra un cassonetto con le mesh, per cui è evidente che lo riconoscono. Un cassonetto con le mesh. Mamma mia. Si potrà dire che i terroristi sono musulmani o non si può dire neanche quello? Bravo. il demone è questo. Dai, su, dai. Stefano dalla provincia di Agino. Con chi eravamo prima, ragazzi? Però scusami Giuseppe, Mauro l'hai fatto, il demone anche, manca Donato da Varese a questo punto. Aspetta. Ciao Giuseppe, stavo cucinando, squilla il telefono, vado a rispondere. Sì. Faccio pronto. E questo mi risponde: pronto, io vorrei far squirtare la mia donna. Sì. Cioè, ma che cazzo di telefonate sono? Cioè, io devo scrivere un prontuario delle cazzo di telefonate che ricevo. Ecco, questo è il modus. Allora, Maura Gigliotti, che mi ha fatto assaggiare il suo squirt e anche i biscotti. Quella di Firenze, buoni biscotti. Poco prima del lockdown mi ha portato anche bene. Finora ci tocchiamo i coglioni. Nella prima ondata mi porto bene. Chissà che il COVID non venga respinto anche dalla. Non credo sia quello. Sarebbe un vaccino straordinario. Sarebbe un vaccino meraviglioso. Hai visto, ragazzi? Vedere Parenzo che beve una provetta di squirt per vaccinarsi dal COVID sarebbe una scena fantastica. Ne dicono di tutti i colori. Mi trasferisco a Wuhan. parlano di vari antivirali adesso, di altri medicinali con cui si è curato Trump, di ancora idrossiclorochina. Hai visto mai che lo Squirt protegga? A questo punto vale tutto, capisci? Vale tutto. Ma vale tutto per la voi. La scienza è morta. La scienza è morta. Dillo quando ci sia il vaccino. Porca che puttana. La scienza è morta. Dillo quando c'è il vaccino che la scienza Porca è morta. Porca puttana. No, dai. È possibilissimo. Comunque, alle 20:15 la signora, ma soprattutto per tutte le zanzarose che sono in collegamento, la signora Maura Gigliotti, per chi non riesce ancora a squirtare, e anche per i maschi che non riescono a far sono squirtare, problemi effettivamente sono problemi. In questo momento sono problemi che tutti si ritroveranno fra poco dentro casa e cazzo, dopo avere scopato trombato sarà l'ultimo pensiero, sarà quello l'ultimo pensiero, l'ultimo. Uno se si rinchiude dentro casa vuole provare a far squirtare la sua fidanzata, la sua compagna, l'ultimo no. Pensiero sarà quello, ma il l'ultimo tuo sarà proprio. L'ultimo la gente, ma è mio, neanche ci penso io. Alle 20:15 si potrebbe fare dal balcone, fai squirtare la tua compagna dal balcone, di cantare i lini del cazzo, fai squirtare la tua donna sul balcone, sarebbe una cosa fantastica. Alle 20:15 come le cascate del Niagara. Alle 20:15 è vero. 20:15 collegamento con la signora Gigliotti. Uomini, donne, mi raccomando, volete sapere ancora, non siete riusciti? Volete sapere altri dettagli ancora più di quelli che abbiamo detto fino adesso? Siamo beh, qui. Cosa c'è da sapere ancora? Chi c'era prima? Chi c'era prima? Ditemi un nome. Stefano dalla provincia di Reggio Emilia, chi c'era? Stefano, era Stefano prima? Dimmi, Stefano. No. Chi era quello del Papa? Non c'è più quello del Papa. Dai, Stefano. Come non c'è più? Non c'è più quello del Papa. Quello che ha dato la chiesa di Antiochia. Sei tu che hai dato il delinquente al Papa? Chi è? Tu? No, io volevo parlare di Parenzo, di Lampedusa, però il Papa comunque che non si possa criticare. Cosa siamo definiti nel Medioevo? Sì, si veste come Otelma e non possiamo criticarlo. Giusto, giusto. Per favore, perché non si può insultarlo? Ma cosa per insultarlo? Perché si urta la sensibilità delle persone. Per quanto mi riguarda, l'Islam può andare a fare in culo tutti i musulmani, hanno rotto i coglioni. E per quanto mi riguarda, le moschee vanno devastate. E per me possono andare a fare in culo i camionisti. Per me possono andare a fare in culo i camionisti. Allora, come Ciccione, ti querelo. Sporchi di sangue con la storia di Lampedusa, anche voi camionisti siete sporchi di sangue, vedi? Sono più intelligenti di te e credi a Massa Bubù e a libri scritti 2000 anni fa. Non possiamo offendere il Papa, perché cosa di speciale? Ha ragione Stefano, è una bestia morale, è offensivo per le persone che ci credono, è offensivo. È semplicemente maleducato e offensivo per le persone che ci credono. Vergognati. Tu sei sporco di sangue. Adesso c'è il diritto a offendere il Papa. Ma chi ha detto sta bestia? Ma è una bestialità. State dicendo delle bestialità. Ma è diverso. Giusto. Ma ragazzi, perché dovete bestemmiare il pubblico? Aspetta, posso dirti che Stefano non sta sbagliando una virgola? Posso dirti no? No, però non difendere uno che bestemmia il Papa, per piacere, perché è vergognoso. Uno che offende il Papa fa schifo e basta, secondo me. Io non sono cattolico, ma io difendo anche Maometto, Marotti in casa, e ma perché devi bestemmiare? Perché urlare così? Non concedere che uno bestemmi, scusa. Ci sono milioni, ma scusa, chiudilo. No, aspetta, chiudilo. Ma no, a me dà fastidio. Io guarda, se sento le bestemmie vado via. Quando finito di bestemmiare, mi chiamate di 5 minuti. Ma che ha detto? Le religioni sono delle merde, questo non si può dire. No, ma anche tutto quello prima. Sono atei, imbecille. Sei tu un imbecille che crede tu. Ma sei tu un imbecille. Ma cosa credi? Non credi niente. Non credi niente, non credi. Ma vergognati. Sono ateo. Io credo nel libero arbitrio. Credo che bambini. Sei acefalo. Sei acefalo. Non sei ateo. Sei acefalo. Sei senza il cervello. Allora. Vengono decapitate le persone con i tuoi ragionamenti di merda, imbecille. Ma io non sto difendendo quelli che decapitano. Io non sto dicendo, non ho mai difeso i violenti. La storia va avanti, stiamo ancora a sopportare gente che va in giro a decapitare, ma vanno eliminati. Ma chi lo sopporta? Ma nessuno lo sopporta. Allora, Parenzo, puoi tornare. Ali da Milano, ciao Stefano, ti abbraccio. Ali da Milano, vai. Ma lo abbracci cosa sto cretino? No, qua? Ma che cretino? Ha detto delle cose anche ragionevoli. Dai, Ali. No, io guarda, ti dico, se sento ancora bestemmiare, il Papa, Maometto, vado via, perché non è divertente. Non si può bestemmiare Maometto, lo dico seriamente. Quello gli fa schifo la religione. No, ma non lo si può mandare in onda, no. No. Ma andiamo in diretta? Secondo me no. Se uno secondo dice, me mi no. fa schifo la regione Italia, non si può dire. Non si può dire. Secondo me no, perché ha bestemmiato Maometto. Secondo me no. Ma non ha bestemmiato. A me fa schifo, perché mi fa schifo uno che bestemmia. Per la prima volta nel 2020 sono d'accordo con Parenzo. È schifoso, Vai, andiamo avanti, forza. Milioni di musulmani, ma scherziamo. Mi rivolgo a Parenzo, che è un amico, oltre che una persona... beni di valori, eccetera, eccetera. Questo non lo so. Se noi avessimo, se noi avessimo una rappresentanza, valori, se avessimo una rappresentanza al Parlamento in Italia, persone come Cruciani dovrebbero essere denunciati e radiati dall'ordine dei giornalisti. Perché Cruciani, cioè, come cazzo ti viene in mente paragonare con le persone che decapitano, che uccidono, con delle persone che arrivano a Lampedusa, che arrivano in Italia, che cercano di inserire. Senti, religione di Bashe, senti, religione di Bashe, ti dico solo questo, amico mio, religione di Bashe, ti dico solo questo. Amico mio, io ho fatto un collegamento, che è nei fatti. Questo signore, lo vogliamo negare? Questo signore, anche i terroristi, anche i mafiosi andavano in chiesa. Pure i mafiosi andavano in chiesa. Pure i mafiosi facevano la processione della Madonna. Torrina faceva le processioni della Madonna. Ma i mafiosi. Vuoi negare che sia, l'ha detto pure il presidente francese, che è un attentato islamico? Ma certo, che cazzo dici? Ma non vuol dire allora, niente della religione. Non puoi attaccare islamica. Ma non puoi attaccare una religione. No, io non ho attaccato popolo, nessuna religione. Io ho detto una cosa. Bestemmiando Maometto, che questo qua, ma quello è nato, io non ho fatto niente. Io ho detto quello, però è andato in onda bestemmiando Maometto. Ma quello ha detto le sue cose su Maometto e su Papa. Ma non sono sue cose, non è libertà. Sono sue cose, la sua no, assume non è responsabilità sue cose, di quello non che è dice. Sue, non è sue, non e è c'è sue. C'è stata un'altra cosa qua, sto dicendo un'altra cosa, Ali. Io non ho attaccato tutti quelli che vengono da Lampedusa, tutt'altro. Io ho detto semplicemente che non si può negare che tutti quelli che dicevano l'accoglienza, eccetera, eccetera, eccetera, oggi non dicono una parola, perché hanno sempre detto, beh, ma figuriamoci, non è da lì che viene il terrorismo, non ci sono terroristi. Questo è tutto. Infatti è vero. Da dove viene questo qua? Da dove è arrivato? Da qualsiasi parte del mondo. Le persone per bene che arrivano, che lavorano. Ma sicuramente ci sono persone per bene. Certo, il 99%. Certo. Documentare quelli che fanno anche nella loro parte. Certo, perché questi sono gli imbecilli che Ali. Sono terroristi. Da dove viene? Da dove viene? Dalla Libia. Dalla Libia. Da dove è venuto? Dove è sbarcato? Ma poteva sbarcare anche a Madrid. Può sbarcare ovunque. Certo, ma è chiaro, a Malta poteva sbarcare. Nicola, provincia di Caserta. Pure a Malta poteva sbarcare, che quando vuol dire? Quando si tratta di dire da dove vengono le cose, i fatti non contano. Ma Nicola, Libia provincia viene, di Caserta. È un criminale che viene dalla Libia. Che vuol dire? Sui barconi. Nicola, provincia ma di Caserta. Certo, ma come è arrivato? Per forza, mica in aereo. Certo. Chiediti perché. Nicola, ma come, dimmi. Perché scappava dalla Libia, è facile, mettere pure i criminali e i terroristi. Ma questo è, può succedere, è ovvio. Adesso lo dici, può chiaro, succedere, ma, no, ma è ovvio che tra 50.000 persone ce n'è uno, dimmi, che è uno stronzo, dimmi, criminale. È statistica. Dimmi, Nicola, dimmi. Salve, buonasera. Senta, io volevo dire, se quei deficienti che abbiamo al governo, qualcuno di loro avesse mai lavorato... Oggi voglio proporre una misura in caso di lockdown, nel nostro caso siamo già chiusi, una misura equa che non costerebbe un euro. Cioè la posso dire? Qual è? Dimmi. Siccome voi avete dei contatti o qualcuno di loro... Ma Nicola, non credo, che cazzo di attività hai tu? Io ho un'attività, ho delle location per eventi. Ma a me che me ne frega, però, per carità, mi dispiace che purtroppo no, non le puoi utilizzare. Ma che bloccano? Perché non bloccano i canoni di locazione? Ma io i canoni voglio... sono cose tra privati, è difficile bloccarle. Fermo là. La Zanzara. Dai Parenzo, adesso vediamo come ti pari il culo con la storia del libro di quel genio del nostro ministro della sanità, che praticamente ha fatto un libro dicendo che il Covid era superato, che ha fatto tutto lui, che è il numero uno, e adesso ha dovuto levarlo dai negozi perché si caga in mano e c'ha vergogna. No, siccome l'hai tanto decantato che lui può fare i libri, perché non può fare un libro il ministro della sanità invece che pensare agli ospedali? Ma scusate, adesso cosa dici? Dai, faccia di merda, perché non dici che hai detto una cazzata, che non capisci un cazzo per una volta? Ce le hai quelle palle lì per dirlo? Ce le hai, le tiri fuori ste palle, mezza sega. C'è un brutto clima in paese, un brutto clima. Ma fatemi capire, cioè uno non può scrivere un libro e fare contemporaneamente il ministro, cioè una polemica talmente stupida. Se Salvini avesse fatto, avesse scritto un libro durante la pandemia da ministro di non so che cosa, sarebbe stato un miracolo. Ma l'avrei attaccato per le sue politiche, non perché ha scritto un libro. Nel libro c'è scritto praticamente tutti i problemi sono superati. Ma lasciamo perdere un argomento che abbiamo già trattato e tirato fuori durante la settimana. No, ma dico, l'avrei attaccato per come ha governato. Però pensa se Speranza avesse messo il suo culo in copertina, sarebbe stato un atto fantastico. Allora, ragazzi, vi chiedo un attimo di silenzio a tutti e due, per favore, veramente abbassate i microfoni dalla regia, perché ho in collegamento da Benevento Ornella Mariani. Buonasera Giuseppe Cruciani, buonasera. Come sta innanzitutto, come mi sta? Bene, grazie. Lei? Si può stare in questo momento? Beh, non c'è dubbio. Che impressione ha avuto? E noi come ne usciamo come paese dopo aver fatto entrare un signore a Lampedusa con un barcone, arrivato, andato in Puglia, non riconosciuto, espulso, ce ne siamo fregati, è andato in Francia e ha sgozzato. Che impressione dà? Che impressione le ha fatto? Che impressione dà? Dà l'impressione che bisognerebbe avere il pudore di licenziare una tizia che si chiama la Morgese. Addirittura. E dà l'impressione, ben nota peraltro, che di questa gente in Italia ne abbiamo più che tanta. Non è il primo, è il primo che scopriamo ufficialmente, ma non è il primo, ai noi. Cioè, secondo lei da Lampedusa arrivano soprattutto delinquenti? Ma cioè, arriva di tutto. Non dico che arrivino solo delinquenti, dico che arriva di tutto. E d'altra parte, che le nostre azioni di controllo siano dei colabrodo, credo che sia sotto gli occhi di tutti. Una volta lei ha detto che abbiamo riempito questo paese di merda. Hanno riempito questo paese di merda. Lei l'ha detto chiaramente, no? Hanno riempito questo paese di merda. Sì. E chi sarebbe? No, per carità, l'abbiamo sentito, hanno riempito il paese di merda, ma lei quando pensa alla merda a cosa si riferisce in particolare? Penso a qualcosa di molto più nobile di quella che circola sia fra l'esecutivo sia fra gli importati. Addirittura. Sì. Senta, ma chi c'è dietro? C'è una strategia nel portare queste persone in Europa? E poi l'Islam, lei come lo giudica l'Islam? Perché alcuni dicono, ma è l'Islam, c'entra... Ma guardi, io francamente non ho niente contro l'Islam, è una teoria che, come dire, riempie la testa di un po' di invasati, ma tutto il rispetto. Il problema è chi ha dato corda e spago all'Islam, tant'è che siamo alla vigilia di una contrapposizione violentissima fra l'espansionismo turco gli islamici sono compatibili con l'Occidente, con la vita, con ma la nostra vita. Ma io temo che da più di 1000 anni gli islamici non abbiano dato ogni prova di non essere compatibili con niente di civile. Cioè lei pensa che siano sostanzialmente incivili? No, io penso che sono sostanzialmente, arretrati. Ecco, arretrati. Quando lei si affaccia dal balcone di casa sua, cosa vede lei? Cosa osserva? Cosa osserva nelle vie italiane? Il grande balcone? In questo momento osservo una realtà agghiacciante, una realtà di gelo interno ed esterno, non c'è più circolazione umana e questa è veramente una... Gli immigrati? Di immigrati, quelli non mancano mai, quelli ci sono sempre con o senza mascherina, normalmente senza, anche se sono portatori tanti di loro e lo sappiamo. I decreti di Conte valgono per gli italiani ma non valgono per gli immigrati. Allora, un piccolo commento finale a Parenzo, me lo deve consentire. Parenzo, come giudica questo intervento? Tante stronzate che ho sentito, quella più grande è che gli immigrati non portano la mascherina, ci sono tanti italiani imbecilli che sono andati in piazza senza mascherina. Dopodiché questa disperata vede dal suo balcone frega meno di un cazzo. Se lei il fatto che lei viva in questo io non ho chiamato nessuno, asino. Guardi, io subisco, io non ho chiamato proprio nessuno. Ha intervistato questa decorticata come fosse un capo di stato, è una povera imbecille. Il punto di Ornella Mariani. Abbiamo fatto l'hai il punto. L'hai trattata come fosse, certo, una persona normale. Una volta, cioè, si faceva tu hai così. La capacità di intervistare degli spostati e farli passare per persone normali. Ci sono domande che uno con quel tono non le può fare a una spostata. Cioè, se tu tratti lei come una normale, punto. Ma chi è questa? Ma chi è questa? È una novella. Ma chi è? Ma è una novella, come si chiama? La Fallaci. È un bagno alla turca. È un bagno alla turca. La Fallaci è la Fallaci. Quella è un bagno alla turca. Tu hai intervistato un bagno alla turca. Alessandro, che è utilissimo. Quando uno va negli autogrill e non sai dove fermarti, è utilissimo. Ma tu hai intervistato, non che lei lo sia, ma come fosse, è come intervistare un bagno alla turca. Tu ti metteresti mai davanti a un bagno alla turca a fargli delle domande? Aspetta, no. Chi è? Pronto, Pamela? Ancora con sta Pamela. Non c'è nessuna Pamela, cazzo! Ancora, Alessandro da Bologna, dai. Pronto, ci sono io o Pamela? No, Alessandro, dimmi. Guarda, io sono sempre io, il rider di Bologna. Ah, Alessandro, anche ancora tu. Ce l'ho ancora a morte con Parenzo, che continua. Mi fa piacere. Sì, su che cosa? Su che cosa? I coglioni. Ecco un altro bagno alla turca. Ecco un altro. Oggi è il giorno dei bagni alla turca. Sei quello che sputa, ogni tanto quando non ti danno la mancia. Diciamo la verità, ricordiamo questo episodio. Solo Bologna. Sì. Però, cioè, guarda, Parenzo è proprio una grandissima merda. Perché? Buonasera e grazie, signor Raide. Stasera è una serata brutta per Parenzo. Non so perché, è girata strana. Cambiano tutti gli spostati. Non sa neanche telefonare. L'ho spostato, però cioè, l'ho spostato Elena di per sé, devi imparare almeno Elena a telefonare. Sì, sono qua. Ciao, dimmi Elena, dimmi. Senti, finalmente ringrazio la tua collaboratrice che mi ha permesso di parlarti di questo. Prego, ringraziamo anche noi. Un argomento scomodo. Davvero. Quando sì, uno inizia scomodo. A dire un argomento scomodo, sta per dire una stronzata secondo... negazionista. Vabbè, non c'è dubbio. Vediamo. Stiamo a vedere, dai. Qual è l'argomento scomodo? Lo sapevi che Sgarbi ha scritto un libro che sta sponsorizzando? L'ho visto porta a porta. Lo sapevi tu? No. Non lo so. Non è che allora sono ve lo dico io. Oggi è la fiera degli spostati. L'ha scritto insieme. No. Dimmi, non è così. L'ha scritto insieme a Giulio Giorello. Sì, che è morto. Sì. Giulio Giorello è quello che mi ha laureato. È un grande filosofo. Sì, allora? È morto a marzo. È quello che so, mi ha laureato. Di COVID. Morto io di COVID. Sto chiamando per l'aspetto che ho per lui. E siccome lui è grande matematico, oltre che filosofo di filosofia della scienza e tutto ciò che vi ho detto. Morto di COVID, peraltro. Bravo Parenzo. Certo, morto Giorello di è morto COVID. Di COVID. Questa certo. Era un mio caro amico, il professore. Ecco, anche me. Giulio Giorello. Ragazzi, ma chi se ne frega? Dunque? No, ma fammi finire. Dunque, arriva il dunque. Ci arriva. Stai tranquilla, che la vanità di Sgarbi non finisce mai. Ebbene, questo libro non ha mai detto Sgarbi, né l'ha scritto nel libro postumo, perché è morto a marzo. Giorello, il vabbè, libro ma chi se ne frega? Dalla nave qual è di il punto? Qual è il punto? Il punto è che Vittorio Sgarbi non ha detto neanche una volta che il suo compianto amico è morto di COVID. Ma che ne sappiamo noi? Ma non è vero, non è vero che è morto di COVID. Ma non lo sappiamo, magari è un'altra cosa. No, i medici l'hanno detto. I medici hanno detto che è morto di COVID. In realtà si parla di COVID, è una conversazione sul COVID. Vado a vedere. Io sono incazzata nera. Ma con chi sei incazzata? Con chi sei indignata? E perché? Gli voglio dare uno schiaffo metaforico in questo momento. Perché non ha mai detto che il suo compianto amico è morto di COVID. Hai capito? Ma non lo so, io lo chiederò, ma chiedi a lui che cazzo vuoi da me? Allora, senti, no, perché tu sei suo amico. Guarda che amico è una parola importante. Ma questa è matta, ma questa è matta. No, hai ragione, sta dicendo delle belle cose invece. Grazie Parenzo. Sta dicendo delle cose. Ma è una spostata, che chiama per... Senti, se hai coglioni, leggiti il bene e il male, l'ultimo libro di Giorello e Sgarbi, leggitelo. Ma certo che lo leggo. Parla solo di COVID e sai cosa dice, per l'amore della verità. Cosa dice? Devo dire una frase che ha detto Giorello, pensava come Sgarbi. No? Dimmi, allora, l'uomo libero non pensa a nulla meno che alla morte e la sua sapienza è solo meditazione, ma non della morte, ma della vita. Io non ho paura. Ciao. Chiedo scusa, un momento, chiedo scusa, pubblicità. La Zanzara. Ciao Cruciani, sono appena atterrato a Tenerife. Adesso te lo vado a trovare. Ho una settimana per trovarti, Greg. Cazzo, se te lo trovo. Vaffanculo quel coglione. Avanti tutta che lo arrestiamo. Intanto questa mattina sono andato dai carabinieri, per fare una piccola denuncia. Ne faccio poche, ne ho fatte due o tre nella mia vita. Piccola denuncia per chi ha diffuso il mio numero di telefono. Piccola denunzia, vediamo come va a finire. Bene, piccola bene. Denunzia. Giustamente interviene Vittorio Sgarbi nella discussione su che, di cosa è morto Giorello, eccetera. Non è morto di Covid, dice così è morto con il Covid. Ah, vabbè, è molto diverso. Se non l'avesse preso sarebbe ancora vivo, probabilmente. Ma che però che vuol dire? Ma chi te l'ha detto stava malissimo? È dirimente, dai, però, su. Cosa, dirimente. Quella cosa lì ha accelerato un malore che già aveva. Ma che ne sai tu? Ma cosa ne sai tu? No, scusami. Cioè, le cartelle cliniche della gente di cui lo hanno scritto tutti i giornali e i suoi familiari. Ma cosa vuol dire? Quante stronzate si scrivono sui giornali? Patrizia da Milano. Io non vi consiglierei di addentrarvi in un terreno Patrizia un po' scosceso, diciamo. Patrizia da Milano. Vai. Ciao caro, volevo sottoscrivere ogni parola della signora Ornella Mariani. Sì, per quel sì. cesso di Parenzo di merda. Perché buonasera, che ha fatto? Buonasera, è un buonasera. Che, ma che è successo stasera? Che è successo? Buonasera, questo buonasera. È un bastardo. Ma come si chiama la signora? Ma se come sei un chiama? Ebreo, perché difendi così tanto? Come si chiama sta stronza? Come si chiama sta stronza di nome? Come si chiama? Difendi i musulmani. Io non difendo i musulmani. Non, perché i musulmani. Non sei un israeliano. Solo degli ignoranti qua. È la serata del dialogo interreligioso. Ma io voglio capire perché chiamano solo degli ignoranti, porca puttana. Ma tu che perché sei un ignorante imbecille. Patrizia, sei un imbecille ignorante. Allora ti posso spiegare la differenza che c'è tra. Ti posso spiegare. Ascolta, cosa sei? Ti posso spiegare, aspetta, posso spiegarti, brutta idiota, la differenza almeno che c'è tra israeliano e italiano? Posso spiegarti la differenza che c'è tra israeliano e italiano o no, brutta idiota che non sei altro? Primo, secondo, uno che è nato ed è in vive in Israele è un israeliano. Hai capito? Allora, gente che difende, caro genio, come fai a dire che tutti i musulmani vanno a sgozzare i musulmani solo dei violenti, come fai no, a dirlo? Fino adesso quelli che hanno sgozzato erano possiamo loro. Dire che Totò Riina era un cattolico no. credente? Vabbè, possiamo dire che Totò Riina era un cattolico? Uguale, quindi voi dite che milioni di miliardi che di musulmani nel mondo sono no, dei potenziali tagliagole? In questo momento il terrorismo bravi. È soprattutto musulmano. State dicendo che miliardi? No, no, il terrorismo è musulmano. Secondo è un fatto, lo volete negare tu e Gottardo questa sera? Pamela si chiama. Pamela si chiama. È un fatto. Cosa diresti? Lo hanno fatto, tu, stupida, lo hanno fatto i fondamentalisti, l'hanno fatto. Fermi tutti. Ma non difendo i fondamentalisti, scema. C'è un fatto che questo qua che ha sgozzato queste persone in Francia è sbarcato da un barcone a Lampedusa. E questo non vuol dire niente. Come non vuol dire? Vuol dire. Ciao, è una Patrizia, coincidenza ciao, del cazzo, ciao. Dai. Coincidenze su quelle che si perdono coi treni. Uno su 50.000, 40.000, quanti sono? No, molti di più. Chiamiamo Liviero Toscani, no, dico dell'ultimo anno, Bolli, non sono lo incazzato so. Come una bestia, chiamiamo Toscani. Pronto. Oliviero, sì. Guarda, sono incazzato come una bestia, guarda, sono incazzato con Parenzo come una iena, cioè sono incazzato con Parenzo, ma sono incazzato come una bestia, ma nemmeno in questo caso, un tizio arriva a Lampedusa, ma che stronzate, viene, passa per l'Italia, va in Francia e si mette a sgozzare delle persone ancora con l'accoglienza, ecco, ma che cosa c'entra? Ma tu sei una persona, ma cosa vuol dire? Arriva un coglione, un matto, allora chiudi esatto. tutti? Esatto, ma scusa, esatto. Ma come ragionate? È ma pazzo, è un coglione ormai. Ma questo è solo matto, diciamo, ma questo credo, è solo matto. È un matto, come ce ne sono dappertutto. Ma un delinquente, cazzo. Ci sono i delinquenti dappertutto. E magari di là ce n'è qualcuno anche come ne abbiamo noi, Vuoi che ti faccia la lista dei delinquenti italiani o no? Ma che c'è questa adesso e finisco. E chi sarebbero questi delinquenti? Ma questo ha sgozzato ma tre dai, persone. Ma è un criminale. Ma è chiaro che è un criminale. Ah, ovvio, dai. Coglioni. Arrivato da Lampedusa, sbarcato da Lampedusa. Ma non vuol dire che arriva da Lampedusa. Non vuol dire niente. Cioè, non lo sa quanti sono nati da Piatta Grasso. Ma cosa vuol dire? Che vuol dire? Non è che da Piatta Grasso non mettono... perché arriva da Lampedusa un delinquente. Esatto. Non ho detto che arriva da Lampedusa, ho detto semplicemente che c'è la prova provata finalmente di quello che voi non ammettete mai. Ma uno su che quanti? Arriva uno, ma uno su quanti? Da Lampedusa sono arrivati anche tanta gente onesta che lavora e sta pagando le tasse. Non c'è dubbio, la mia pensione, la tua pensione. Ma non credo proprio, guarda, la mia pensione la pago io con i miei contributi quando sarà, certamente non me la pagano loro, guarda, su questo non c'è dubbio. Paga la tua pensione. Ma assolutamente no. Dunque, secondo te non è un problema che questo sia arrivato da Lampedusa? Non c'entra niente. No, non che sia arrivato da Lampedusa, il problema è che questo è un delinquente. Ma questo siamo d'accordo, siamo tutti quanti d'accordo, ha sgozzato tre persone, che è islamico pure. Ma è possibile che voi per sopravvivere dovete sempre trovare il nemico? Il nemico, ma questo è islamico, nessuno. In Francia dicono che questo qua è un terrorista islamico, invece non bisogna manco dire magari che è islamico, ma è matto è sicuramente un terrorista, sicuro. Un terrorista islamico, va bene, un terrorista. Ah, islamico così, non lo diciamo nemmeno. Ma non è perché arriva da Lampedusa un delinquente. Ma non perché arrivi da Lampedusa, significa che su questi barconi, se non li fermiamo, possono arrivare dei delinquenti. La scoperta. Possono arrivare anche della tanta brava gente. Soprattutto tanta brava gente. Che sarà il futuro del mondo. Sì. Che sarà il futuro dell'Italia. Sì, il futuro dell'Italia arriva da Lampedusa. Quelli da Lampedusa sono il futuro dell'Italia. No, sì, infatti. Sul barcone arriverà anche il marito della tua figlia. Non ho pregiudizi. Perché forse il tuo figlio è più intelligente di te. Ma cosa c'entra? Che non deve fare queste discriminazioni. Cioè, ma non ho capito perché per forza con uno che viene da Lampedusa deve stare mia figlia. Non ho capito che c'è scritto. Sarebbe una bella nemesi, però. Sono delinquente per forza. No, ma io non ho capito. Dunque, per te il fatto che questo qua sia sbarcato a Lampedusa, poi sia riuscito, è espulso, è riuscito ad arrivare in Francia, non vuol dire un cazzo. Non vuol dire un cazzo. No, ma arriva da qualche parte. Tutti arriviamo da qualche parte. E chissà. Perché, che vuol dire? Vuol dire che significa che è un colabrodo l'Italia. Ma non è che uno che arriva dalla Sicilia è un mafioso per forza, lo capisci o no? Delle stupidaggini che dici, ragazzi, generalizzazioni. Uno che arriva da Corleone non è per forza un mafioso, lo capisci o no? Ma dai, su, ragazzi, siete ridicoli. Sì, è vero. Siete ridicoli. Ma è vero. Siete ridicoli. Tu sei ridicolo, grossier. Cruciani, quanti anni hai? 54. 56, non 55. Non hai ancora capito, che cazzo, cosa? Quelli vengono da Lampedusa sono il futuro, il nostro futuro. Che sta dicendo delle cazzate? Io non sto dicendo quelli che vengono da Lampedusa. Siamo un colabrodo, facciamo entrare tutti senza controllare chi cazzo sono e possono andare in giro per sgozzare le persone. Come chi va in giro a sgozzare? Ma dai, ma tu a Lampedusa gli domandi scusi, lei è un delinquente? Qualche indagine in più lo dovresti fare, diciamo, dato che questo qua da qualcuno è stato mandato a sgozzare, no? O è uno spuntato così a caso? Ci sarà radicalizzato poi in Francia, ma che ne sai? Dicono all'estero, quelli che ragionano come te, dicono tutti quelli che vengono dall'Italia sono mafiosi. Ma che c'entra? È così, cazzo. Io ho lavorato all'estero tutta la vita, io ho sempre dovuto dimostrare di essere una persona onesta, perché gli italiani sono una banda di mafiosi. Hai capito? Gli italiani non sono una banda di mafiosi. No, appunto, no. Tanti italiani mafiosi hanno fatto sì che una maggioranza di gente onesta l'abbia avuto nel culo, perché la minoranza era mafiosa. Però scusami un attimo, Oliviero, io volevo chiederti un'altra cosa. I ristoratori che si incazzano, tu sei dalla parte loro oppure pensi, come ha detto Galli, che non ci sono morti, per adesso non ci sono morti? Senti, io sono del parere che avremmo dovuto avere il coraggio di chiuderci in casa sul serio, tutti seriamente, per un mese, serio, secco. E dunque i ristoratori non devono rompere i coglioni, dici, questi che fanno le proteste? No, in questo modo qui è complicato, perché... Allora, questi qua hanno fatto dei sacrifici, hanno messo la norma in negozio. Esatto, bravo. E adesso ho fatto questo. Secondo me non abbiamo avuto il coraggio all'inizio di fare le cose seriamente come hanno fatto i cinesi. Imparate dai cinesi, non dagli americani. Vai, dai cinesi, come imparate dai cinesi. È una dittatura. Ma forse sì per la salute. Cioè, tu dici serve più quando si tratta della salute, serve più la dittatura piuttosto che la democrazia. Dovremmo veramente ascoltare fino in fondo e non fare gli stupidi tutta l'estate, poi tornare a casa e piangere perché è una ricaduta. Dunque fosse per te rinchiusi subito in casa, Andrea. Adesso no, avremmo dovuto. E adesso pure. Seriamente. E adesso forse anche adesso, e sarà così, vedrai. e dovremmo piangere. Grandi problemi, grandi problemi. Ciao, ciao, grandi problemi. Ciao, ciao, ti saluto. Ciao, ciao, ciao. La Zanzara. Crux, alla faccia tua, già la settimana full. Stasera sono fuori con una, domani con un'altra e venerdì con un'altra. Alla domanda, ma alle 6 che è tutto chiuso, dove andiamo? Beh, qualcosa. Zio Canella, c'ho una macchina che è un frigo bar, che è tutta dentro, che mi è bisogno di andare a spendere di soldi in un bar. Questo è un cretino, eh? Totale. Porca puttana Eva. E poi dopo c'ho i sedili che tac, in un attimo si ribaltano e via che gli do di spatola mentre tu sei lì in radio a litigare con quelle mezze seghe lì dei tuoi colleghi, degli ascoltatori sfigati che chiamano e piangono tutto il giorno. Modichi Smassen, chi ristoratore dal cast, alla faccia loro, mentre vanno a protestare, io infilo il palo nella gnocca. Chi è? Pronto? Pronto? Pronto? Niente. Chiamano sempre il numero per pensando che sia Pamela o cose di questo tipo. Donato da Varese, vai Donato. Mancava? Sì, ti sento, insomma, dai. Guarda, Giuseppe, io certamente chiederti qualcosa che sarebbe veramente difficile in questo momento. Non fa sì che questi due ingombranti personaggi che ti hai nello studio mi interrompano. Sì, dimmi. Allora, io ve lo dico, io sono entrato in Radio 24 nel 2012 la prima volta alla Zanzara. Sì. È la prima, è diciamo il comune denominatore che diciamo che io ogni tanto ci andavo già per ne parlare, ne discutevo, è il fatto che il cristianesimo e l'Islam non sono religioni che devono vivere assieme. Sì. Noi abbiamo quasi 3 milioni di islamici in Italia, quindi siamo fottuti. Quello lì che ha ammazzato quei tre innocenti che mi verrebbe da piangere. Viene da piangere. Lo giuro, mi viene da piangere. Cosa piangi, sto scemo? Sì, mi viene da piangere. Ma non fare il pagliaccio. Ma non sei uno spostato. Ma non fare il pagliaccio, spostato. Ma se gli viene che non da piangere, sei a... viene ma da piangere. Che piangere, ma è un patessimo. Questo sembra Mario Giordano. È Parenzo, sì, in è peggio, Parenzo, però. È Parenzo. Mario Giordano in peggio, è Parenzo. Però. Ma non c'è, no, quello lì che ha detto spostato, allora lasciamo stare. È Parenzo, allora, è Parenzo, è Parenzo. Noi vogliamo l'originale, Mario Giordano. Allora, è Parenzo, guarda, è Parenzo, è Parenzo. Ma non piangi più adesso, perché non piangi? Piangi, piangi, piangi, piangi. Piangi, allora, non stai per piangere. Allora, piangi, scemo. Nelle mie piangi. Questi due. Ma non dovevi piangere. Piangi. Assassini ideologici. Ma non doveva piangere. Noi aspetta. Siamo fottuti fino all'osso. Quella sì, di merda. Non ha avuto nemmeno il coraggio chi? Di dire terrorismo islamico. Ha detto terrorismo. Se lì invece di islamici che hanno ammazzato quei poveri disgraziati fosse stato il contrario. La nomenclatura giornalistica di merda, assassino di cui fa parte questo ignobile essere umano che hai nello studio che si chiama Parenzo, che vale meno del mio smegma quando sono malato. Ma questo lurido assassino ideologico, sei malato. Malato da Varese, adesso sei malato. Questi due bidoni contro un'Italia che due. Sta morendo. L'Italia sta morendo, ricordatevelo, sta morendo, è finita. Cos'è finita? Abbiamo paura dell'Islam, hanno paura anche quel bidone schifoso di Toscani, quell'urdo verme, quell'assassino ideologico, quel nulla, l'esasperazione della merda. Ma non devi piangere, non vale un cazzo. Non piangi, ma stavi piangendo prima. Luciani, sì, dire come piangi? Tre persone, incredibile. Anche una sgozzata. Uno con un coltello in mano ha detto: adesso io, in nome del mio Dio, sì. Io ti uccido. Ma è un pazzo, sì. Come abbiamo fatto noi a portare in casa nostra 3 milioni di persone che ammazzano in nome del per loro bene. Dio? Sono per bene i 3 milioni di persone. Uno ha sgozzato della gente in Francia, ma non succede tutti i giorni. Schifoso, ma sai quanti napoletani? Schifoso. Sai quanti napoletani quando come te sono immigrati a Varese? Quando diventeranno 4 milioni? 5 milioni, 6 milioni, se il Duomo non succederà di nulla, sarà una grande moschea. Non succederà nulla. Lurido, infame, vi siete permessi di offendere la signora Mariani. Vergognatevi. Ma tu offendi gli italiani, tu offendi gli italiani. Stonato da Varese. Parenzo e Gottardo sono l'esasperazione della morte, non valgono un cazzo. Scusami, non valgono come le tue nulla. Canzoni, come le tue canzoni, non valiamo un cazzo come le tue canzoni di merda. Aspetta, Donato, è vero una cosa, e però che voi avete in particolare Parenzo paragonato a un gabinetto turco la signora Marani per le sue opinioni. Sì. E questo è molto grave. Sono degli esseri umani. Te lo giuro, perché piangi? Perché stai piangendo? Piangi. No, piangi di aspetta, non stai Francesco piangendo. Da Firenze, stai Francesco da Firenze, non stai piangendo, ha chiamato Francesco da Firenze, fermo. Allora Donato, io ho chiamato per dire soltanto una cosa, vorrei capire perché Donato, vorrei capire perché Donato ha deciso di far pagare a noi, ai musulmani d'Italia e del mondo, le sue frustrazioni di mancato successo personale, musicale. E anche quindi non riesco anche a capire che colpa hanno i musulmani d'Italia e del mondo e noi che siamo ai loro Donato, perché il motore creativo dei due era il fratello, era il fratello, capito, li chiamavano comunque a suonare alla sagra di, non lo so che cazzo fanno a Varese, ma che c'entra questo con l'Islam, non lo so che cosa fanno esattamente, c'entra il fatto che Donato sta evidentemente sfogando sue frustrazioni personali su persone che ritiene responsabili Donato. Della musica, dello spettacolo e tutto. non è colpa dell'Islam se Mahmood sa cantare e scrivere le canzoni e Donato invece suona come suona il mio buco del perché lui con questa mentalità, allora sì che dovendo scegliere devono morire questi assassini ideologici, queste mine vaganti. Ma scusa, Francesco dice che tu stai ce l'hai tanto con gli islamici perché sei frustrato dai tuoi insuccessi musicali, sostiene dice Francesco, come lo consideri questo Francesco da Firenze? L'hai sentito, no? Ma non so che sì, ma sarà una chiave per tutte le chiaviche. Solo una chiavica può dire queste cose. Invece di piangere per quello che è successo a Parigi, perché domani accadrà anche a lui, accadrà anche a questo pezzente immondo. Questo è un pezzente immondo. Io sono entrato parlando di un problema enorme che siamo tutti vicini. Aspetta, Francesco, aspetta. Donato, tu sei stato il campanello di allarme che ci ha mostrato quanto carente fosse il servizio sanitario nazionale, perché nel momento in cui in un paese avanzato, un paese occidentale, si abbandonano le persone con evidenti psicopatologie a se stesse, al telefono, alla radio, a Cruciani, poi succedono queste cose. Ma Donato, io ti voglio dire, io ti sono amico, io sono anche un volontario per una grossa e famosa ONG nella sezione qui di Firenze. Io ti posso dire, Donato, ti lascio il mio numero di telefono, chiamami, parliamo, ti sfoghi con me, Donato, che dici, Donato? Perché tu hai bisogno di una persona buona che ti dia una mano. Donato, reagisci, ti sta trattando come a casa tua e ti scortico in nome del mio Dio. Grandissimo uomo di merda, come ti scortico? Allora, ma ragazzi, questo che succede? Però che ti scortico non è proprio una cosa. Piangendo. Donato, scortico in nome del mio Dio. Ti scortico in nome del mio Dio. Ma ti scortico, Donato, ma cosa devi Donato, ma tu scortichi le corde della chitarra quando suoni, questo, Donato. Sì. Ma cosa devi scorticare che sei un vecchio baboso che passa il tempo a chiamare Cruciani sperando che Cruciani gli dia un poco di attenzione? Piangi per i tuoi fratelli che sono stato ucciso in nome e non interessati di cose che non esistono, uomo di merda. Ma io mi interesso di te, tu sei mio fratello, Donato, io voglio aiutare te perché tu sei mio fratello. Io sono cristologico in questo, io ti voglio aiutare, Donato, bravissimo, capisci? Voglio lasciarti il mio numero di telefono personale, Cruciani lo sa, te lo dà e parliamo. Ciao, perché ciao, tu hai Donato, bisogno di tanto ciao, aiuto. Donato, mi metta a parlare di tua moglie, mi metta a parlare di tua moglie. Tua moglie l'ho vista prostituirsi in via della Bastracca. Ma perché devi dire così? Ma guarda, la mia compagna è incinta di due gemelli, quindi prostituirsi in questo momento non è possibile. La mia musica, grandissimo uomo di nulla. Ciao Donato. Uafè da Ferrara, Uafè. Vabbè, Uafè da Ferrara. Buonasera. Buonasera, signora Uafè, signora Buonasera. Uafè. Dica pure. Intanto voglio dire che l'Islam non c'entra nulla di tutto quello che sta succedendo. Ah, l'Islam non c'entra nulla. L'Islam è arrivata. L'Islam in quanto Islam, da Ferrara, no, certo. È arrivata la signora Muslim da Ferrara, Uafè. A dirci l'Islam non c'entra nulla. Ma scusa, nulla. Se lei è un'islamica moderata, l'ha detto si sarà il presidente della Francia, il presidente della Francia. Infatti, come ha detto Erdogan, è un malato mentale. Chi? Malato mentale. Donato Tavarese. Macron perché no, Macron è un malato mentale. Ah, perché benissimo. Crea solo dell'odio. A chi vai dietro, Parenzo, a quelli che dicono che Macron non era un malato mentale. Questa sarebbe moderata. Questa sarebbe moderata. Sì, moderatissima. Per fortuna che è moderata, per dai, fortuna. Su, Macron è un malato mentale. Erdogan, signora, Erdogan è lo sgozzatore. Erdogan è un dittatore. Urlava, però lo sgozzatore David, lo sgozzatore gridava alla non c'è dubbio che ci sia l'islamismo radicale. Ma non sono d'accordo. Ho detto che esiste una cosa neanche di quello che sta succedendo. È la tua religione, Uafè, è la tua religione. Sì. Fatti qualche domanda e datti qualche risposta. Fermi tutti. La Zanzara. La pippa al lavoro è liberatoria, è capitato anche a me, faccio il cuoco, dopo che mi masturbo mi lavo le mani come dice Barbara D'Urso e niente, fatevi le pippe anche voi. Saluto a Parenzo che viene spesso a mangiare trastevere da noi, un bacio. Allora ragazzi, è con noi la più grande squirtatrice d'Italia, grande ritorno in tempi di Covid, Maura Gigliotti. Eccoci qui. Buonasera a tutti, in particolare a Parenzo. Adesso una bella squirtata buonasera, in faccia signora. A Parenzo sarebbe ma non fondamentale. Non ce n'è bisogno. Sicuramente lo tutela e lo protegge, lo fa diventare immune. Guardi ma... che per ora io sto benone, grazie. Anche prenderò senza magari... squinting stai bene. Anche sì, senza assolutamente, squinting. Soprattutto. Prenderò in considerazione questa meglio. Sua cosa magari più avanti, in un'altra vita. Grazie. Sta cedendo Parenzo. In un'altra vita ho detto, in un'altra vita. Allora io voglio capire una cosa innanzitutto, quando hai il prossimo corso? Il prossimo corso sarà domenica online alle 6:30 e... Domenica online? Cioè solo online si possono fare mai i corsi? Purtroppo in questo momento solo online, preferirei dal vivo però cioè, per ora lo facciamo cioè, online. Ma tu squirti, vedremo, l'ultima insomma. Squirtata che hai fatto, quando è stata? Racconta, non la persona naturalmente, ma l'ultima grande squirtata, l'ultimo shock che hai dato a qualcuno, quando è stato? L'ultimo shock che ho dato all'incirca una settimana fa e quantifichiamo lo shock in più o meno un litro e mezzo. Un litro e mezzo, ma chi era il signore? Più o meno, sì, assolutamente un litro e mezzo. Beh, era una persona che è stata ben contenta e ben felice rispetto insomma, contento a precedenti episodi. Se l'aspettava? Se lo aspettava non si aspettava queste quantità, quindi è rimasto. Ma era venuto per che cosa? Era venuto per cosa? Per un massaggio? Era venuto, possiamo finire. Comunque l'ultima è stata una settimana fa, un litro e mezzo. Più o meno una settimana fa, sì, un litro e mezzo. È uscito massacrato praticamente, cioè è uscito distrutto. Beh, barcollava quando è andato via, però era molto felice, visibilmente felice e illuminato. Un litro e mezzo? La squirtata dove è avvenuta? In faccia, sul corpo, sul pisello? Dove? Ovunque. Ci sarà stato un istintore. Doccia, più o meno. Ci sarà stato un punto privilegiato, no? Dove hai squirtato? un punto privilegiato, quando esce a spruzzo, per cui inonda la qualunque, diciamo. Sostanzialmente tutto il corpo viene benedetto, tra virgolette. È un po' un'acqua santa, diciamo, no? È un po' un esibizionista la signora. Sacred Water la chiamano, come, mi scusi? No, è un po' un esibizionista la signora. Ma non c'è niente di male essere esibizionista. Beh, è uno spettacolo, sicuramente uno spettacolo. Spettacolo circense. Scusa, secondo te, in questo periodo acquatico, sì. In questo periodo, secondo sono te le orche. Il Covid può essere può essere respinto, secondo te, dallo squirt? Scusami, Mara. Allora, sicuramente, ma se lo squirting si coniuga con la felicità, tutto quello che porta felicità e benessere fa stare bene il sistema immunitario, e quindi respinge, certo, quantomeno tutela di più dal Covid. Per cui fate cose belle, siate felici, squirtate tantissimo, squirtare tantissimo. Ci sono anche altre attività, voglio magari capire se la signora islamica di prima da Ferrara, che è collegata alla signora Wafè, che ha detto delle cose incredibili. Wafè, ci sei, signora Wafè? Sì, ci sono. Scusi, lei, buonasera. Lei ha mai praticato lo squirting? Come no, aspetta, fammi sentire. Io vi confermo che non c'è nessun verso nel Corano che dice di uccidere un innocente. Sì, perciò questo quello che è successo a Nizza, di sicuro non è un malato mentale. Io non sono d'accordo. È islamico. Scusi un attimo, ma cosa c'entra? Ma se è un malato, la sua dicendo, religione, è un malato mentale. La sua religione ammette lo squirting o no? Lei sa che cos'è lo squirting? No. Lei non sa. Lo posso insegnare. Lei non sa cos'è lo squirting, signora Wafè. Non è fondamentale però saperlo, diciamo. Scusi, perché no. È meglio sapere la Costituzione. È meglio la sapere la Costituzione. Lo menziona. Allora, Wafè, sai cos'è lo squirting o no? No. Tu a quanti anni hai, scusami? Ho 33. Cioè, tu a 33 anni, islamica, porti il velo? No. Non porti, tu non sai che cos'è lo squirting. Vabbè, ma magari sa la Costituzione, che sarebbe più interessante. No, insomma, ma è incredibile. Ma ti dico una parola in arabo e te non la sai. Ma non è sai. Arabo questo, è lo squirting. No, ma è universale. Allora, no, ma perché non so bene l'italiano. Ma non qual è italiano, il problema? Non è inglese. Ma glielo posso spiegare io. Ecco, spiegaglielo, Mauro, cos'è lo squirting. Te lo spiega la signora Mauro. Durante una situazione di piacere erotico, di piacere sessuale, la donna emette grandi quantità di acqua dalla vagina. Sostanzialmente questo è lo squirting. Sì. Ed è legato comunque a una situazione di grande piacere, di grande intensità. Quindi è sostanzialmente è la vagina che schizza, praticamente. Tra l'altro il Corano non lo menziona, ma l'Apocalisse di San Giovanni lo menziona quando Babilonia, la grande meretrice, dice che sta seduta su molte acque, presumibilmente queste acque sono acque benedette. Vabbè, adesso questo qua è una tua interpretazione. È una citazione, o Tigri e Frati o lo squirting, decidete voi. Wafè c'è o non c'è? Se n'è andata l'islamica? Hamid da Brescia, sentiamo. Sì, Hamid. Cruciani, comunque discutete e parlate di queste cose solo con gli islamici, che poverini non possono rispondervi. Ma perché tu conosci lo squirting? Certo che conosco lo squirting, io sono quasi nato in Italia, parlo perfettamente italiano, ho la cadenza nettamente bresciana e sostanzialmente... conosco a 360 gradi quali sono le visioni italiane e le visioni islamiche. Sì, ma voglio capire, condanno tutto quello che questi terroristi hanno fatto, quindi ma sono musulmani. Okay, attenzione, Cruciani, quando uno ammazza, sono non musulmani. Dico il cattolico ammazzato, sono ma che musulmani. Cazzo state dicendo? Sono musulmani, allora, ero musulmano, Allahu Akbar, sgozzato, vergognati. Guarda, ma vergognati te che sei un ignorante. Ma ti devi vergognare di quello che dici, di minimizzare. Stai minimizzando, perché si condanna il... Reato, giusto, ma non puoi dire che la religione reato, non c'entra. Ma non si deve associare. Ascolta, ma come non si deve associare? Certo, si deve associare. L'associa la religione, certamente. L'ha fatto il presidente francese. Ma se uno è deviato, se uno è un esaltato, è un deviato. La religione non c'entra in questa deviazione. La religione non c'entra in questa deviazione. Ma tu sai cosa vuol dire l'Islam o no? Amico mio, l'Islam è tante cose, ma non puoi dire che non c'entra niente. Non puoi dire che non c'entra niente l'Islam, capito? Amido, come ti chiami? Sì, ma allora io non è che sto dicendo che l'Islam non c'entra. E allora basta, c'entra e basta. Ciao Hamid, ciao. Ma vai a fare il culo tu. Torniamo allo squirting. Io voglio capire una cosa. Una donna, ci sono molte amiche mie che mi chiedono come arrivare, come arrivarci. L'abbiamo detto tante volte. ma allora, in previsione di un nuovo lockdown, probabilmente tante coppie, cioè, secondo me, ci proveranno. Allora, come si arrivare? Come si possono dedicare, perché non avranno un cazzo da fare dentro casa e qualcosa dovranno avranno fare. Altri problemi da fare. Sicuramente anche quello dello squirting. Allora, se uno non ci è arrivato fino adesso, se uno fino adesso non ci è arrivato, mm-hmm, una donna, e un uomo magari non è stato capace di far arrivare una donna allo squirting, tu dici non è un problema dell'uomo, è un problema della donna. Cioè, tutte. No, è anche un problema dell'uomo. Ma tutte le persone possono squirtare? Dotato, non riesce a farlo squirtare. Potenzialmente tutte le donne possono squirtare. Il problema è o che non si lasciano andare abbastanza e confondono lo squirting con l'urina, quindi quando sentono, vabbè, il segnale si contraggono, oppure l'uomo non è fisicamente e tecnicamente dotato. Per cui donne, diffidate degli uomini, sì, che però vi uno dicono può squirtare anche da solo. Uno può squirtare anche da solo. Di sì, può squirtare anche da solo. Tu squirti spesso anche da sola. A livello di piacere molto molto intenso, quindi deve essere una donna calda, deve essere una donna abituata a ma godere. Ma come fai a squirtare da sola? Spiegami, squirtare da sola come fai? Masturbandoti? Da sola, allora, si può squirtare in maniera diversa, si può squirtare con la masturbazione. Non è che la gente c'è tutto sto tempo libero per fare sta roba. Oppure si può squirtare con l'uso di un dildo, perché per la donna è molto difficile da sola. Ma se uno fino adesso, se uno fino adesso non ce l'ha fatta, una donna non ce l'ha fatta, non deve demordere, deve continuare, deve perché tanto prima o poi ce la farà. Non assolutamente sì, non deve, vuol dire, non deve demordere, ma chi se ne frega, deve non deve demordere, ma che è una gara, deve, ma che vuol dire, mica una maratona, tutta la gamma del piacere possibile, certo, è una gara, però, una gara verso qualcosa di intenso, di bellissimo, per cui perché però, professoressa mi dica, professoressa mi piace, scienziata. Sì. Senta, signora scienziata, sì, a me è capitato di fare squirtare una mia amica. Ma che meraviglia. No, ti giuro, ti giuro parenzo, ho infilato il medio e l'anulare. Ma il medio? Due. Allora, sarebbe meglio l'indice e il medio, perché in realtà è il medio che arriva al punto e l'indice lo sostiene. Certo. Il punto è, a un certo punto si sente un tessuto un po' rugoso che rimane immobile mentre tutto intorno si muove, ed è della misura di circa una moneta da 10 centesimi. Mm. Quello è il punto deputato all'emissione, cioè con il medio, molto interessante, stimolando punto, si deve arrivare a un tessuto rugoso. È praticamente la larghezza è una moneta da 10 centesimi. Uno una se ne accorge di callo, perché tutto una specie intorno, di callo vaginale. Esatto, tutto intorno i muscoli comunque della vagina si muovono. Questo punto rimane invece immobile ed è rugoso. Quanto non è in profondità? Rigido. Quanto è in profondità? Ci arriva esattamente il medio messo in posizione un po' ricurva, considerando che la donna, perfetto, dovrà stare a gambe larghe, appoggiata, sì, magari, che ne so, mia, alla testiera del letto. Oppure in anche in piedi, caso, oppure in piedi a gambe larghe. In piedi è un pochino più difficile. A me è successo è tempo fa, diverso tempo fa è successo con una persona praticamente era in mezzo. Era una donna che aveva già squirtato. No, ma in mezzo a una strada, in mezzo a tempo fa, in mezzo a una strada a gambe larghe, ho praticamente allagato tutta la strada. Ragazzi, era tutta la situazione che aiutava. Una situazione molto città? Forte. Mi è successo. In che città eravamo, Giuseppe? No, un'altra città. In Sicilia, pensate, in Sicilia. Tantissimi anni fa, una donna, gambe larghe, in mezzo alla strada, strada vuota completamente, ma proprio giù tutto. Era la prima volta, giù tutto, perché effettivamente il dito era un po' storto. Mamma. Cioè, esatto, la posizione è quella. Ed era andato a toccare. Come se dovessi chiamare una persona. Come se dovessi? È il gesto del richiamino, è come se tu dovessi andare a chiamare una persona, e a quel punto però la pressione non deve essere costante, allenti e premi, esatto, è proprio un esercizio zen quasi, e quindi a quel punto, quando a un certo punto la donna è calda e carica, ovviamente se c'è una situazione erotica tipo quella aiuta moltissimo, ovviamente, perché non c'è dubbio. Grazie, non Maura. È normalissimo. No, allucinante il racconto. Ibrahim da Torino. Aspetta, no, aspetta. Scusami, là. Giuseppe. Dimmi. Giuseppe, ho una notizia da Varsavia. La puttana ebraica, la nostra amica, ma non esiste, che abbiamo sentito molte volte, dice: sì, anch'io squirto spesso ed è come dici tu. Quindi medio e anulare. Lei, ma Ibrahim da Torino. Ma chi è stata disperata? Ibrahim, dimmi. Volevo chiederti una domanda, Crociani, visto che sei ignorante e mi dispiace a dirti quello, è quella persona che ha ammazzato 2 anni fa decina di persone a Venerdì, la preghiera del Venerdì? La preghiera del Venerdì, ma stai dicendo la preghiera del Venerdì? Ma di che stai parlando? Di che stai parlando? L'attentatore, quella persona no. a Neozelanda che ha ammazzato decine di persone. Ma chi? Breivik? Chi era? Chi no, era? È cristiano. Sì, vuol dire ma che c'entra? Ma non terroriste. C'è terrorismo cristiano in giro. Ibrahim, basta con queste cazzate. Musulmane, ma sì, gli unici terroristi sono musulmani in giro. Diciamo la verità. Ma non è solo matto, è in nome dell'Islam che ha ucciso. Ma non dire cazzata, non dire cazzata. Vedi, negazionisti della realtà. Fermo lì, Ibrahim, che adesso torniamo. Fermo là. La zanzara. Comunque top Giuseppe Palermo, frate, che deve avere una istigliola mensassata. Per quelli che non lo sanno, a istigliola in italiano sono le budella del vitello. Le budella del vitello arrostite sul fuoco. Se mette una mascherina, Giuseppe. Mensassata, manco sanno chi vuoi dire le norme igieniche. Un piattino il stesso per tutte, ci sono che si sta mappina tutte cose e poi si mettono la mascherina. Ma fate ridere, fate, il singolare l'avete a fare fino alla fine, non capo che mettete la mascherina, non ci rompete la minchia la mascherina pure voi. Aspetta che devo chiamare una persona, David, aspetta. Chi chiamare? Ma è incastrato in una cosa stasera, guarda, ti vorrei ammazzare. Sono un po' stanco però. Ti vorrei ammazzare. Ma è tardi, sa. Non risponde. Ibrahim, che volevi? Dai, dimmi Ibrahim. Ci sei o non ci sei, Ibrahim? Andrea da Roma. Oh, dimmi. A Crucià, Roberti, stavo a carico a pallettoni in una maniera per la cazzata che ha detto Parenzo, gli immigrati che vanno in giro la mattina. Ma quando mai l'hai visto un immigrato, Parenzo? Scusami? Quando mai l'hai visto un immigrato, dici? Quando sempre, mai in continuazione. Lasciando che sei ebreo pure io, Parenzo, io quando ti ascolto divento antisemita ascoltandoli. E sei ebreo pure io, sei tu, una cosa insopportabile, se Parenzo. Come ti chiami tu, scusa? Andrea. Che fai? Fammi capire, a che età si fa il bar mitzvah? Il bar mitzvah si fa a 14 anni per i maschi e a 13 per le ragazze. Sbagliato. 13 maschi, 12 ragazze, perdono. Quasi sei arrivato. Senti, altra domandina. Quest'anno in che anno siamo? Siamo nel 5000, cioè, guarda, io non so osservante. Aspetta, è per capire, amico caro, fratello caro. Scrivo su Facebook, così ti do il cognome mio, non ti preoccupare. Non darmi il cognome, non importa. Non darlo alla radio. Non darlo alla radio, fratello mio, dai, ti prego, lo dico per te. Il punto è, ti posso dire una cosa dal cuore, ti posso dire una cosa. L'islamico non è di per sé un terrorista, te voglio dire. Dopodiché ci sono dei criminali terroristi fondamentalisti islamici, si chiamano fondamentalisti. Ma dei fondamentalisti ebrei, quanti ne conosci? Zero, nessuno. Dio, anche lì. Però qualche non ci sono però degli sgozzatori, quello sicuro. Tra gli ultra ortodossi ebrei non esiste un caso, non esiste uno. Esiste quello che ha ucciso Rabin, che è uno, però era un matto. Sì, uno non esiste della storia. Non è che poi... Ma sono il primo io a dirlo, figurati. Però quello che mi fa innervosire è che ci sono miliardi di musulmani. Me. Se tu dici che sono tutti terroristi potenziali, quello è un delirio, però, perché non ne veniamo a ma capo. Ma chi ha capito? Detto che sono tutti terroristi potenziali? Cioè, semplicemente. Se voi dite che gli islamici sono terroristi, ma chi? Ci sono i terroristi islamici fondamentalisti, quelli sì. Ascoltami un secondo. Allora, tu abiti a Prati, no? Un bel quartiere, tutto quanto. Cioè, quando l'hai visto un immigrato per strada, uno di quelli che non è che vivo, guarda, in una, vieni, non è che vivo in una pioggia dorata, in una torre dorata. Stavo per dire, tendi la cena, te famo un shabbat assieme, te ne vieni a Ponte de Nona e te faccio vedere. Ciao Andrea. Allora, oggi mi è arrivato questo messaggio dal signor Bracconeri. È arrivato questo messaggio del signor Bracconeri. State attenti alla parola del signor Bracconeri, state attenti, questo è il messaggio. Buongiorno Peppe, scusa, ma prendevate per culo quando vi dicevo che toccava sputare sul Corano quando entravi in Europa o soprattutto in Italia. altri 3 decapitati in Francia. Bene, questi sono i musulmani, i pezzi di merda musulmani. Pronto? Pronto? Pronto? Ma chi è, Lundini? Sì, sì. Cruciani. Oh, grande Lundini, come stai, caro? Bene, ciao Benzo. Ciao Parenzo, non Parenzo. Questo non sa un cazzo, è un conduttore per caso, non manco il cognome tuo sa. Cioè. Una pezza di Lundini. Cioè. Parenzo, come si chiama Parenzo con la P? Parenzo, non Parenzo, hai detto Parenzo, ma proprio un conduttore del cazzo questo qua. Ma come? Guarda, come è incredibile, guarda. Ma perché avete chiamato? Che è successo? No, dico, ma stasera dobbiamo venire per forza? Guarda, allora, sì, grazie che me l'hai ricordato. Sì, perché stasera abbiamo una puntata. No, è vero. Ci hai invitato tu? Ma come ci hai detto di venire, cazzo? Tu ci hai detto, vieni al programma una pezza di Lundini in onda su Rai 2. Tu ci hai detto. No, ve l'ho detto non oggi, l'avevo detto qualche giorno fa, poi non avevo capito. Io tocca che prendo l'ultimo aereo qua per arrivare in tempo. A che ora cazzo va in onda sta roba? Ma è in seconda serata, quindi non terza, è chiaro. Che seconda? Terza serata? Guarda, dipende quando inizi. Cioè, come dipende? Ma come dipende? Non lo so, cioè il popolo della notte la considera prima serata. Il popolo della notte. Amico ma mio, che ma ora sa, è? Ma è me, più o meno. Ma non sa niente, manco l'ora in cui va in onda il suo programma. Aspetta, allora Cruciani, un attimo. Allora, il programma... Ma tu che facevi prima di fare il conduttore televisivo? Che facevi? No, c'avevo una... Le case, una drogheria avevo delle case, avevo degli appartamenti di famiglia, affittavamo e... la roba incredibile, come Cruciani, gente ricca di famiglia, certo. No, sì, degli appartamenti. Paio di appartamenti, sì. No, cioè, allora, non facevi un cazzo praticamente prima di fare il conduttore di questa pezza di Lundini, come si chiama? Io sono stato invitato da un tizio insieme a Parenzo stasera, ma non so che cosa devo fare io stasera. Allora, Cruciani, un attimo. Allora, praticamente è seconda serata, quindi è 23 qualcosa, a seconda di quando finisce il programma prima. Quindi sì, se prima c'è un film breve... Non me si inculano proprio, cioè quando finisce, finisce. È come la Zanzara, che inizia quando finisce Barisoni. Esatto, esattamente. Quando finisce Barisoni di Rai 2 di stasera, sì. Il programma mio era una pezza di Lundini. Allora, che domande ci farai? Spiegami. Ma banale, intervista, come va, che progetti per il ma futuro? C'è un gettone, un peggiatore di presenza. Sì, esatto. Allora, no, il problema, mo vi spiego, che praticamente la Rai ha fatto problemi perché hanno speso vari soldi per un altro ospite che era venuto giorni fa. Che... E allora? Ma hai promesso 1000 euro? Mai promesso? Esatto, però aspetta, 1000 euro perché io gli ho detto Cruciani, però io intendevo il pacchetto Cruciani-Parenzo, quindi ormai loro hanno detto Cruciani, ok, 1000 euro. Però quando ho detto anche Parenzo, adesso capiamo. Dividete il tacchi al cazzo, capito? Questo è il punto. Scusa Lundini, però io no, mi sono carità, permesso. Mi sono permesso. Cazzo, mi sono preso l'impegno con te perché il tuo programma mi fa molto divertire e vengo. E poi? Io ti ho detto, però c'è un argiano, un piccolo segnale, un modo per incentivarmi. Ma hai detto allora. Sì. E adesso scopro che sono 1000 euro per lui. Ma è una cosa pazzesca. No, aspetta, vabbè, ti devo salutare, Lundini, ti devo salutare. Ci vediamo tanto. 400 400 e io 500? Sì, perché tu vieni da Milano e quindi avevamo pensato fosse più corretta una cosa del genere. Ti adorando il culo. Ciao, ci sentiamo dopo. Una pezza di Lundini. Ci vediamo dopo, ragazzi. Ciao. Io però Bracconeri lo chiamerei, eh. Vai con Bracco, vai. Oh, Bracconeri. Yeah. Sono Cruciani, come andiamo? Mamma mia. Ciao Peppe, come stai? Non c'è male Fabri. Sei incazzato come una bestia per sto Islam, no? Come al solito. Come un animale, quando io dicevo che dovevano sputare sul Corano sono stato festeggiato, preso per il culo. Beh, insomma, sputare quando sul Corano addirittura. Tu ancora una volta dici bisogna sputare sul Corano. Altrimenti non puoi entrare, altrimenti non puoi entrare in Ma Italia, come ti cioè... permetti di insultare una religione indipendente? Ma come ti permetti? Ma come ti permetti? Ma come ti permetti? Ma sei un bestemmiatore. Ma non è che tutti gli islamici sono come gli attentatori, ma che dici? No, ma sei un bestemmiatore, sei però. Ma non dire cazzate, sarebbe come dire tutti gli imbecilli sono bracconeri. Per l'ennesima volta, perché non lo fanno? Sei un bestemmiatore, sei un bestemmiatore. Perché non lo fanno i testimoni? Perché lo fanno solo sti sozzoli? Sei un bestemmiatore, stai offendendo. Io conosco centinaia di islamici. del nostro paese. Stai offendendo Abdallah Kabakebji. Stai offendendo Abdallah Kabakebji. È un medico, è un medico grande dentista milanese. Stai offendendo Abdallah Kabakebji. Questo che è grande dentista milanese, lo dici te. Io ti dico che pure Mario Persichini è più un grande. Vabbè, ma tu stai offendendo un fedele musulmano. Secondo te, un musulmano dovrebbe sputare sull'Islam e sul Corano? Dovrebbe disconoscere la legge. È una bestemmia. No, hai detto sputare, hai detto una volta sputare sul Corano. Nel senso, chiedi scusa, è una bestemmia. Perché se no è un. Tu devi stare attento, perché usando queste parole puoi creare veramente un casino, perché stai bestemmiando per molte persone. Beh, anche tra... casino lo creano. Se uno dice che bestemmia, che sputa, commette un atto che per molti può essere un'offesa molto grave, che non giustifica alcuna cosa, ma è molto. Ma non è libertà. Offendere le persone non è libertà. Francesco, perdonami. Ma non c'entra niente. Francesco si affacciasse dalla sua stanza a San Pietro e dicesse: domani tutti i cristiani uccidete i musulmani o gli ebrei o la qualsiasi altra religione. Io dico: Papa Francesco è un pazzo, non posso credere che uno dica una cosa del genere in nome di Dio, in nome di un Dio qualsiasi. E dunque tu mi stai dicendo che tocca cacciare tutti i musulmani perché tutti sono pericolosi potenzialmente. Tu questo faresti, tutti. Più volte l'hai detto. A meno che non dicono, sì, hai ragione, la legge islamica è una legge stupida perché permette di fare questo, permette di sposare bambine, permette di ammazzare chi non è religioso come loro, chi non la pensa. Dunque, raderesti una volta hai detto al suolo le moschee, cioè questo è il punto. Io, mamma mia. Le moschee non devono, ma io ragazzi, io parlo con tu sei un bestemmiatore. Sono stato in Marocco, sono stato un mescito. Le moschee, non ho capito, le moschee? Le moschee, ma scusa, quello che fa Erdogan, ma lo state vedendo? No, ma le moschee, che ci facciamo con le moschee? Con le moschee turco, ma mica il nostro modello. Le moschee non devono esistere. Ma perché nelle sinagoghe non succede mai nulla e nelle moschee predicano l'Islam? Allora tu riproponi, dopo quello che è successo in Francia, riproponi la tua vecchia frase: sei musulmano? Vuoi stare in Italia? Che devi fare, sì. Fabri? Che devi fare? Questo. Devi disconoscere le leggi islamiche. Se sto qui. Mangiare. Se ne vai a fanculo in Arabia, se ne vai nei paesi arabi. Mamma mia. Dunque, mangiare. Perché non va nei paesi arabi ma viene nei paesi occidentali? Una volta hai scritto: sei musulmano e vuoi stare in Italia, mangia la mortadella e sputa sul Corano. Questa hai scritto una volta, amico. Che imbecille. Ho detto pure che ai musulmani basterebbe non ammazzarli, basterebbe bombardarli con le salsicce. Ma che imbecille, come bombardarli? Sei una persona che offende. Perché tu stai offendendo un intero popolo, non si capisce perché. A fronte di alcuni casi di ma secondo te il Corano ha senso, Fabri? Ha senso il Corano così in generale? Ha senso Bracconeri? Non ha senso nessuna legge religiosa. Nessuna legge religiosa. Aspetta, fermo. Bracconeri, guardaci, l'intero popolo che tu stai offendendo è quello italiano, perché potrebbero fare gli stessi ragionamenti anche gli arabi dicendo: gli italiani sono tutti degli zozzoni ignoranti, guarda Bracconeri com'è preso. Tu hai detto la nostra cultura italiana. Fammi un esempio sul componimento di Petrarca. Dimmi cosa ha scritto Petrarca. Ho detto la cultura occidentale è diversa da quello che ne sai te. Ma che ne sai te che sei un ignorante capra come pochi? Ma che cazzo ne sai te? Ne sa molto di più Abdallah Kabakebji di te. Coglione, sei un coglione del Kenya. Ma di che parli? Vai, capitali, ma che è la storia? L'interrogazione. Ancora con sta Abdallah Kabakebji. No, io dico, lui che è italiano, è un islam, è di fede musulmana, fa il medico, si sente insultato e offeso dalle stronzate di questo imbecille. Comunque, posso dire una cosa? Posso dirti una cosa, Fabri? Il killer, quello di Nizza, quello decapitato, sbarcato a Lampedusa, sbarcato a Lampedusa. Vabbè, che vuol dire? Ho detto detto solo questo, è sbarcato a Lampedusa, dico solo questo. Niente. E ascoltava la Zanzara, e magari ascoltava la Zanzara, che ne vuoi, che vuol dire? Devi schierare le navi, come vedi che il barchetto richiama la capitaneria di porto con il silenzio. Ti porti indietro questo, ti devo affondare. Che devo fare? Ti porti indietro, sì o no? E se questo dice no? E se questo dice no? Io il chiappo e il butto, non potete entrare, me lascio 15 giorni qui. Allora siete voi gli umani che non mi venite a ripiare i vostri connazionali. Mamma mia, mamma mia, io l'ho mai sentito, tanta ignoranza tutta insieme, mai. No, no, parliamo invece dell'ignoranza della cultura del cazzo che ci porta a questo, a essere capitati, a aver paura di andare in chiesa. Ma dai, chi ha paura di andare in chiesa? Ma di chi devi aver paura? Fermo là, Bracconeri, non devi aver paura. Di che? Perché? Non devi aver paura, perché tu sei come le salamandre. Se ti tagliano la testa non succede nulla. Che serata, ragazzi, che serata, per fortuna è finita. Questa è l'Italia, questa è la Zanzara, italiani. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30, so, alle 8, ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la Zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.